Stai su Radio Wombat, questa è Radio Wombat, 8 Hertz. Hello e benvenuti alla nuovissima puntata di 8 Hertz, che per la prima volta trasmette anche in onde AM alla frequenza 1359 dello Stato di Firenze, ecco. Stasera facciamo il volume 4 del format all'interno di 8 Hertz, che va per la maggiore, perché sono stati già appunto fatti, questo è il quarto volume, quindi attenzione, della rotella. Che cos'è la rotella? La rotella è un'opportunità per chi fa musica e per chi ascolta, come nel caso vostro, di sentire della libera improvvisazione attraverso l'uso di sintetizzatori elettronici, digitali, effettistica varia, quindi libera improvvisazione anonima, quindi non si sa mai chi c'è dietro a suonare, ma tutta gente importantissima del panorama sperimentale italiano. E di solito sono due persone che suonano, come stasera, ovviamente non ve le presento, sono già pronti e caldi per provare questa improvvisazione. Ricordiamo il perché l'anonimato ti dà anche la possibilità di esprimerti al 100%, sia nelle cose belle anche che negli errori. Gli errori spesso si fanno sperimentando, per cui è facile cascarci, ma devo dire che almeno nei primi 3 volumi di roba è stata fatta molto bene, molto bella. Gli errori secondo me ce ne sono stati pure pochi, quindi riascoltate anche i podcast nel sito postwombat@siberia.net e intanto vi lascio e buon ascolto, magari ci risentiamo tra un po', magari no, ciao. Thank you. Thank you. Thank you. We'll be right back. We'll be right back. Thank you. Thank you.

Thank you. We'll be right back. Thank you. Sei su Radio Wombat e questa era 8 Hz, la rotella. Grandissimissimi. Alla settimana prossima, poi finisce. Grazie. Per fortuna narrano.